sono le ore 18:31 di venerdì 2 febbraio 2024 e io intanto vorrei ringraziare Christian Conti che mi ha scritto un bellissimo messaggio privato a commento del primo episodio della quinta serie di Pendo Deliri. Christian Conti è uno di quei nomi che risuonavano nei programmi, diciamo, dei primi Barcamp, che più o meno erano coevi dei primi episodi di questo antico podcast. Mi ha scritto fondamentalmente che anche solo sentire questo tipo di audio un po' sconnesso, con tutti i problemi, la mia voce naturalmente, gli ha ricordato quell'epoca gloriosa in cui non sapevamo se saremmo morti utenti di GeoCities, perché ancora c'era quel rischio, però non è detto che sia andata molto meglio, ecco, questo vorrei dirlo, pensando a Facebook soprattutto, che bene o male ancora domina un po' la vita di noi boomer, di cui oggi ricorrono i 20 anni. È proprio poco fa il giornalista di TV2000 Di Vito mi ha chiesto così di riassumere in un minuto che cosa ha determinato per le nostre vite Facebook. Io ho detto un po' di cose scontate e banali, però magari comprensibili, sul fatto che sicuramente Facebook ha avuto il merito di rendere possibile alle masse l'accesso a questa nuova esperienza di situazioni appunto nuove, no? Questo spazio comunque aperto al dialogo, ma soprattutto al dialogo anche con l'ignoto, con gli sconosciuti, con dinamiche chiaramente diverse rispetto a ciò che da sempre per noi sono stati i media, cioè starsene lì buoni a prendersi una pappa pronta. Quindi per un po' c'è stata questa fase in cui si pensava che su Facebook sarebbe stato possibile sfuggire all'omologazione e magari poteva anche Facebook diventare, perché no, una porta verso la diversità, salvo poi strutturare tutto l'algoritmo in modo da premiare negli anni sempre di più ciò che scatena le reazioni in più emotive. E ovviamente questo funziona se sono pochissimi temi al giorno, e quindi non solo, come sappiamo, quel terribile algoritmo premia la polarizzazione, l'hate speech, la superficialità alla fine, ma soprattutto premia l'omologazione, proprio perché per funzionare i temi su cui tutti devono dire la propria tutti i giorni non possono essere più di 2-3 al massimo, che poi sono gli stessi decisi nelle solite 4 stanze delle redazioni, a dimostrazione del fatto che non è vero che l'agenda adesso dei media non conta più nulla. No, semplicemente quell'agenda deve bucare tanti schermi: il solito schermo, quello televisivo, i giornali e la radio che vanno dietro, e poi tutti gli schermi su cui è possibile farci fare click, per un verso o per l'altro. E non riesco a capire come mai ancora le televisioni mi chiedano dei pareri su questo, perché obiettivamente sono un po' sparito dal radar per ragioni personali. Non faccio più presentazione del libro perché non, diciamo, in questo momento ho diverse priorità, però evidentemente ho ancora degli amici che mi segnalano forse alle redazioni dei giornali, delle TV, e quindi vi toccherà sorbirmi ancora per un po'.